Oggi parleremo di due storie che ci azzeccano poco tra di loro, ma che in realtà descrivono molto bene alcuni problemi della nostra vita quotidiana. Sono due focus su aspetti che tralasciamo spesso, ma con cui conviviamo e che coinvolgono la nostra vita digitale. E questi sono la censura online e le briciole di dettagli personali che lasciamo su di noi. Facebook è un casino con i contenuti che chiama, definisce contenuti per adulti, sessualmente espliciti, insomma, se c'è un capezzolo che esce, ti rimuove tutto. Lo stesso Zuckerberg l'ha dichiarato in passato: per i nostri sistemi è più facile rimuovere un capezzolo che non capire cosa sia il linguaggio d'odio. La scorsa settimana però si è creato un ulteriore caso preoccupante. Facebook infatti ha bloccato l'immagine di aborigeni australiani in catene, schiavizzati, nudi, che era stata postata sui social. Da lì, il blocco della condivisione però non si è fermato. Ha infatti, prodotto anche un ban di alcuni utenti che si sono visti quindi letteralmente sbattuti fuori dalla piattaforma. A quel punto però si è creata una catena di effetti collaterali assurda, perché persino l'articolo del Guardian, che parlava della rimozione dell'immagine, è stato rimosso a sua volta. Si è creato quindi un vortice pazzesco di censura a catena che ha coinvolto un po' tutti. Episodi del genere sono successi ovunque, persino in Italia, se non sbaglio, alla testata Valigia Blu, in quel caso però si trattava di altri contenuti, credo. Ma comunque gli effetti di questa censura, di questi filtri, sono evidenti. Eppure continuiamo a richiedere che siano utilizzati i filtri automatici per dare forma alla nostra vita, perché di questo si tratta. E questi filtri continuano ad essere la soluzione più adorata da chiunque. Giusto ieri, Pillon, che continua a produrre idee schifose, ha proposto un filtro digitale per proteggere i minori dai contenuti pericolosi, senza rendersi conto di cosa ha provato a mettere in piedi. Ma forse di questo tema ne parlerò in un'altra puntata. La seconda storia invece parla delle briciole che noi lasciamo indietro, delle foto dei nostri account e anche di come la privacy diventa una questione non più del singolo, ma di noi in relazione con gli altri. La storia è questa: negli Stati Uniti hanno arrestato una donna grazie a un tatuaggio e ad una maglietta acquistata sullo store online Etsy. La maglietta leggeva: "Keep the immigrants, deport the racists". Dunque, durante gli scontri che ci sono stati, delle manifestazioni per la morte e l'uccisione di George Floyd, nella città di Philadelphia sono state date al fuoco due auto della polizia. L'FBI è riuscito a prendere delle immagini video in cui si vedeva questa donna appiccare fuoco a queste due auto della polizia. Da quell'immagine, da quelle riprese, sono riuscite a risalire ad alcune foto pubblicate su Instagram. E inoltre hanno ottenuto anche altre fotografie scattate da un fotografo freelance che si trova nella zona. Da queste immagini sono riuscite ad individuare la scritta della t-shirt e notare questo tatuaggio sulla donna. Cercando su Google, facendo un'immagine, una ricerca inversa per immagini, tramite Google, sono risalite a un venditore su Etsy che produceva esattamente quella t-shirt con quella scritta. Hanno così chiesto, essendo l'FBI, di ottenere i dettagli della transizione, e da lì hanno trovato questo nickname dell'acquirente. Un nickname che aveva persino lasciato un commento al prodotto stesso, sempre su Etsy. Da questo nickname, cercando su Google, sono risaliti ad altri account online altre informazioni e persino ad un profilo LinkedIn di una donna che vive a Filadelfia, una donna che aveva lo stesso tatuaggio. Il gioco era fatto. A quel punto, avendo un nome, un cognome, e altre informazioni sono risaliti ai contatti diretti e l'hanno individuata. Negli Stati Uniti addirittura ci sono anche dei sistemi di riconoscimento di tatuaggi, di machine learning che riescono a riconoscere i tatuaggi, ma non è servito perché sostanzialmente le informazioni, la vita digitale di questa donna ha permesso di ricostruire i vari indizi e portare alla sua identità. Questo è sì un caso di potenziale crimine commesso e quindi da indagare, ma allo stesso tempo ci ricorda che anche noi lasciamo tracce online facilmente ricollegabili alla nostra identità. E questo può essere pericoloso nel caso in cui finissimo al centro di attacchi personali, di minacce, della follow agguerrito. Potremmo essere doxati in un attimo. Non è strano quindi leggere che ultimamente diverse applicazioni stanno fornendo la possibilità di oscurare i volti nelle foto, come ha annunciato recentemente anche l'app Signia. Ma questo deve farci riflettere non solo sulla nostra digiene digitale e quindi cosa sto rivelando di me, come lo sto ricollegando a me, che tipo di nickname utilizzo, che foto pubblico, perché magari potrebbero rivelare informazioni sulla mia posizione, sull'ubicazione, persino come è fatta la mia stanza. E come dicevo recentemente una ricercatrice che si occupa di cyberspazio, dovremmo cominciare anche a prenderci cura degli altri quando pensiamo alla privacy. Quindi crittografare, utilizzare per esempio la crittografia end-to-end, diventa una sorta di cura dell'altra persona. E per questo motivo è quindi postare foto di sconosciuti online senza farsi alcuno scrupolo può paradossalmente essere pericolosissimo.